mani in alto. 87.9 Radio Onda Rossa, 17.51 minuti primi. Sull'onda di Radio Blackout noi riprendiamo la diretta invece con la Valle. Ciao. Ciao, ciao a tutti, a tutte. Allora facci un attimo. Insomma, sta andando avanti adesso con un momento con il passaggio, praticamente lo sgombero, il tentato sgombero dell'autostrada. Diciamo che adesso come adesso, mentre le ruspe lavorano davanti e dietro di noi, ci sono un centinaio di persone sedute a terra che chiamano il nome di Luca e che cantano gli slogan che cantiamo tutti quanti sempre, insomma. E la situazione diciamo che è composta di differenti anime, ci sono molte delle persone riconoscibili del movimento, insomma tutti quelli che hanno messo la faccia in tutti questi 20 anni per la causa valtusina. Quindi adesso la situazione è, sentite le ruspe, noi siamo tutti a terra, tutti vicini, storie, questo è quello del momento, stanno sbaraccando tutte quante le barricate, ci stanno mettendo molto perché erano ben fatte. Senti, dici, allora voi siete sull'autostrada, sempre sulla A32? Sì, siamo sulla A32, precisamente il tratto d'autostrada che era stato occupato è Accio Nostro, quello che ha caratterizzato un pochino questi giorni, quello che è stato il centro un pochino della mobilitazione notato questi giorni. Ok, e invece ci sono anche altri blocchi, giusto? Allora, adesso come adesso non so niente, perché noi siamo qui e veramente circondati a perdita d'occhio. Da prima c'era un cerchio di telecamere tutto intorno a noi e poi ci sono, non so, a perdita d'occhio, polizia da una parte e carabinieri dall'altra. E la situazione è abbastanza concitata, insomma, noi estremamente pacifichi in questa situazione. E niente, insomma, cioè, un po' di tutto che ci gira intorno, attimo un po' di confusione, però devo dire noi tutti uniti e tutti presi bene. Senti una cosa, diciamo che quest'oggi si è tanto parlato della Valle e a cominciare, insomma, io, se tu avevi 5 minuti, mentre capiamo anche lo sgombero se sta avvenendo e la polizia si avanza, avrei fatto con te un resoconto della giornata. Insomma, si è iniziata questa mattina con questo famoso video della pecorella, insomma, di questo manifestante che mentre in un momento di stasi delle cariche parlava a questo poliziotto, insomma dicendogli appunto che sei una pecorella, che fa, mi spari, e via dicendo. Questa cosa sembra, insomma, aver scatenato poi i giornali ovviamente ci hanno fatto dei richiami sopra tutta la giornata. Ancora una volta i mass media sono stati protagonisti, perché poi il Corriere, questa cosa è avvenuta sul Corriere punto di quella diretta del Corriere, e poi il Corriere, insomma, ha tra virgolette denunciato questa aggressione da parte dei manifestanti a una sua troupe. Io, se ti va, insomma, vorrei che ci raccontassi un po' anche la tua versione, perché poi ho visto, ho letto, insomma, ci stanno un sacco di camionette e piuttosto che macchine che sembrano un misto, non si capisce se sono giornalisti. Sì, vai Damiano. Sì. Anche perché veramente sono stati tante ore al presidio tutti questi giorni, quindi seguire poi i media ufficiali è stato difficile, insomma. Quindi pure la storia della pecorella è stata più nelle chiacchiere che ci siamo fatti qui, cercando di mantenere il presidio, che in quello che ho visto in televisione, internet o radio, insomma, siamo stati abbastanza concentrati in questo. E niente, quindi... E diciamo che oggi è successo che da 2 giorni c'era due macchine bianche messe in un angolo molto strano, un po' lontano dal presidio. E si è deciso di andare a vedere e praticamente sono state trovate all'interno delle macchine. Sono state trovate, intanto nessuno ha toccato nessuno, questo sia chiaro, mi hanno detto che sono girate delle cose di minacce, un cacciavite, veramente niente di più falso di tutto questo, nessuno ha tolto un capello a nessuno, questo sia ben chiaro, che uscisse subito chiaro, perché tutto il resto è un'invenzione. Certo è questo, che all'interno della macchina, come poi hanno potuto vedere molte persone. Sono state trovate intanto un lampeggiante, è stata attaccata la sirena direttamente da dentro la macchina. Ci sono stati dei cinti zaini con dentro tutte le strutture, antenne, che poi sono state risuonate pure da gente un po' più capace di me, insomma non sono un esperto in questo. Insomma il movimento poi ha deciso insomma di non, cioè ha superato pure nessuno ha toccato nessuno, questo qui. Sono andati via con una delle loro macchine tranquillamente senza problemi, questo qui scusate ma è difficile rispondere in questa situazione. Sì, sì, fai tu, nel senso sei in diretta, noi seguiamo sia quello che sta, ovviamente diamo priorità a quello che sta succedendo in questo momento sull'autostrada, lo ripetiamo ancora, siamo ancora in valle, perché poi con tutta questa giornata che c'è stata oggi dei mass media, questa questione del Corriere Sera ha distolto totalmente l'attenzione su quello che è reale, poi battaglia. No, dico che tutta questa questione poi su media, un po' parlo mentre anche per chi sta ascoltando la radio. No, ragazzi, dai, è un momento pure bello che strilla sempre il nome di Luca. Sì, sì, infatti ascoltiamo. Una presenza qui con noi, a lui, insomma, tutti quanti sperano pure un miglioramento. Però un attimo solo che poi continuiamo. Vai. No, dicevo che tutta questa questione poi di quest'oggi su questa cosa del Corriere della Sera piuttosto che gli schiaffi eccetera ha distolto i media che ancora una volta si parlano di loro stessi da quello che è, poi sono le lotte di quello che sta avvenendo sull'autostrada, quindi gli sgomberi e la resistenza popolare che insomma in questi giorni accade 24 ore su 24, nessuno ha minimamente messo in discussione mai in un solo momento quello che sono l'operato delle forze di polizia o del governo di sgombero di una popolazione intera, di forze d'occupazione che stanno su un territorio, insomma si continua a usare i media e i media si usano se stessi per distogliere sempre e comunque l'attenzione da la reale lotta e quello che sta accadendo. Certo, no, questo è evidente, poi insomma una cosa la volevo dire perché questi giorni veramente questo pezzetto della valle è stato inondato di telecamere di tutti i tipi, di tutte le specie, veramente in alcuni momenti sono stati, scusate un attimo solo che ci stanno, un secondo, ci stanno proponendo, un secondo solo che ci stanno proponendo una sorta di trattativa, ci stanno proponendo perché evidentemente vi faccio sentire un attimo. Che certo, pensate? Sì, sì, certo, mettiti un po' vicino. Beh, che no, ci sentiamo. Purtroppo siamo obbligati a stare seduti in questo momento. Va bene, facci un po' sentire, un po' fai tu il riassunto, insomma, fai sì, un po' tutte e due. Vi faccio sentire adesso, se è un attimo placato. Sì. Soltanto ci hanno... Allora, ci... Vai, vai, ovviamente, non ti preoccupare, se potessimo lo stiamo urlando anche noi con voi. Siamo in un momento di stasi. Quindi diciamo che tutto quanto è filtrato dalla presenza delle telecamere, veramente ingombrantissime, che in questo momento veramente la gente dice che ci trattano i guanti soltanto per questo. Guarda, poi manderemo infatti in diretta una telefonata che Radio 24 ha fatto a Perino, veramente interessante, che un po' racchiude la giornata di oggi, in cui Perino finisce la telefonata dicendo siete degli sciacalli, e su Luca in particolare. No, scusate, ma non si sono sentito. Allora, possiamo fare una cosa? Ci risentiamo fra 5 minuti? Sì, ci risentiamo fra 5 minuti. Un secondo, che cosa ci stanno dicendo? Va benissimo, ti richiamo fra 5 minuti. Sì, vabbè, ciao. Scusate. No, no, figurati, no. Anzi. Va bene, allora, questa era una telefonata ovviamente diretta con quello che sta succedendo sull'autostrada.